E siamo rientrati, 451 frammenti sonori, rientrati in diretta dopo aver sviluppato la prima parte dedicata poi in realtà a questo evento, a questa performance che verrà appunto svolta il 10 luglio, martedì prossimo alle 21.30 al Museo della Musica di Bologna, organizzato e ideato da Rita Correddu e anche Michele Braga e Alice Militello, con le performance, lo ricordiamo ancora, di Francesca Burzacchini, Marta Ciappina e Laura Ulisse. Abbiamo sviluppato una sorta di intervista, interazione, anche una sorta di anticipazione in parte di quello che sarà l'ambientazione sonora, questa sorta di sonorizzazione, ma anche riduttivo chiamarla così, del Museo della Musica, lavoro che ovviamente vi invitiamo a seguire, come faremo noi stessi presenti comunque in quella serata. E abbiamo voluto pensare, appunto, prendendo spunto da questo incontro con questi musicisti, con appunto questo tipo di motivazione, e abbiamo pensato di intitolare questa puntata di stasera The Sound of Silence, un gioco anche che abbiamo pensato fosse simpatico, anche in riferimento a un famosissimo brano che però non c'entra con la trasmissione. Viene da ridere il laureato, si ricorda, il laureato. The Sound of Silence era l'idea, appunto, il suono del silenzio, una puntata dedicata al silenzio che può essere anche assordante a livello sonoro. Abbiamo, abbiamo voluto ovviamente omaggiare il grande John Cage, essendo questa iniziativa di martedì 10 luglio all'interno, ideata all'interno di 100 Cage. E poi, appunto, questa seconda parte cercheremo di portare avanti un percorso sonoro all'interno dell'argomento e della dimensione silenzio. Abbiamo aperto con Nicola Sani, compositore italiano molto molto interessante, che ha studiato con grandi musicisti e compositori di musica contemporanea, che ha fatto appunto un lavoro per diversi anni legato all'idea del silenzio e muovendosi sul terreno della dimensione appunto sonora. Questo album, da cui abbiamo tratto un frammento, si tratta di un doppio CD, Elementi, uscito per la Stradivarius nel 2007, e appunto è un lavoro che è legato appunto agli elementi, dunque dal gorgoglio dell'acqua al rombo del tuono al mugghiare del vento, e suoni anche che rappresentano, cercano anche di rappresentare, appunto, scusate il gioco di parole, una combinazione dei rumori anche percepiti e anche della reazione emotiva che l'ascoltatore può avere rispetto all'ascolto di questi suoni che vengono rappresentati. Dunque suoni che anche imitano rumori degli elementi, e un linguaggio che appunto sviluppa Nicola Sani, lo sviluppa in maniera molto molto interessante, dove l'elemento del silenzio è comunque costantemente presente, come è presente oggettivamente all'interno dello sviluppo degli elementi basici, insomma, della natura, comunque del mondo che noi spesso dimentichiamo, ma che ci circonda, anche perché siamo spesso bloccati da una dimensione legata al cemento, comunque a ben altri rumori creati ovviamente dalla tecnologia, ma che anche questi interagiscono, e non a caso abbiamo voluto affrontare anche questo argomento anche nelle registrazioni, ad esempio, che hanno sviluppato gli ospiti che abbiamo avuto qua stasera rispetto alla sonorizzazione degli alberi. Gli alberi non ovviamente come produttori diretti di suono, anche se poi in realtà potrebbero produrre suono attraverso il vento, le foglie, o comunque quello che si può annidare dagli insetti a tutta una serie di elementi della fauna che si possono collegare agli alberi, ma soprattutto al suono che circonda gli alberi, ad esempio nella città, ma potremmo avere un altro tipo di suono se andiamo a sonorizzare gli alberi in montagna, in campagna, vicino al mare. Insomma, ce ne possono essere tante di opzioni legate a questo tipo di dimensione. Ricordiamo anche una passeggiata sonora che sarà fatta giovedì da Albert Mayer, Il nostro grande Albert Meyer, che abbiamo avuto il piacere di avere anche in trasmissione in passato, e avere comunque anche collaborato su un'iniziativa qua a Bologna. Sì, alla Galleria Neon, ricordiamo qualche un paio di anni fa. Comunque trovate anche qualcosa sul blog appunto legata a questa collaborazione 451 Albert Meyer, e giovedì sarà appunto a Villa Mazzacurati, se non sbaglio, per il festival di Per Aspera. Quindi insomma, se pensate che si possa andare oltre la caoticità non voluta, perché poi il silenzio chiaramente non esiste, esiste sempre un suono, e proprio questa è l'idea poi di fondo che mosse anche lo stesso Cage all'inizio, proprio quella idea anche di 4 minuti e 33 era una sorta di riflessione su quello che è l'atto musicale. In effetti i 4 minuti e 33 cosa facevano? I musicisti spostavano il pianoforte, si muovevano nell'ambiente, nello spazio, proprio per una riflessione su quello che è anche appunto il suono inteso veramente in senso più largo. Quindi la musica in quanto organizzazione di questi suoni, e questi suoni poi appunto che diventano musica, cosa che insomma qualche decennio fa sarebbe stata impensabile, proprio attraverso una riflessione dello stesso suono che ci circonda e poi della composizione di questi, come fa proprio Alan Lamb, artista veramente notevole, Edimburgo, la sua sì, scozzese di Edimburgo appunto. Il nostro Alan Lamb se ne usciva nel 97 con un album eccezionale, uno degli album probabilmente, anche se poi vabbè qualcuno l'ha data come 98, vabbè, tra il 97 e il 98, 98 sì, per la Dorobo, e Night Passage. E Alan Lamb lavorava su un telegrafo, una idea anche se vogliamo decisamente così arcaica, volutamente anche questa di Alan Lamb, di lavorare appunto su un filo del telegrafo, quando insomma internet, e quando musicisti come lui del suo giro lavorava già sul glitch, quindi su sonorità legate decisamente sull'interazione di internet, invece lui se ne esce appunto con un filo del telegrafo. E cosa succede intorno o sopra il filo del o sotto il filo del telegrafo? Uccelli che s'appoggiano, e rumori del vento, persone che passano sotto questi fili, e aerei che passano sopra, insomma un insieme di situazioni sonore poi organizzate in maniera squisitamente musicale, e qua lo ribadiamo. Se poi insomma qualcuno ancora intende la musica in senso stretto con le sette note, beh insomma da 100 anni, probabilmente da Satie in poi, che invece la faccenda si è decisamente allargata, e facendo uscire anche appunto gioielli di questo tipo. Questo appunto è Night Passage Origin Master, perché poi esistono anche dei mixaggi fatti anche da grandi del suono concreto degli anni 90, del glitch, tipo Marcus Pop, Pansonic, che remixano Pita, appunto i lavori, per quanto possa essere poi anche astrusa l'idea di un remix su un lavoro già trattato in termini di composizione appunto di suono ambientale. Comunque ce l'andiamo a sentire, così sciogliamo, come dire, questo suono silente. Sciogliamo i capelli. Pure al vento, sì, sotto andiamo. Il telegrafo dell'Alan Lamb. Ebbene, siamo rientrati dopo quel che ridi. Ebbene, cari. Così, no? Allora, male. Vescovile. Malissimo. Vescovile, un po', eh? È un po' vescovile, va bene, fratelli. Pace bene. Così, pace bene però Carmelo. Ah, ecco, sei un bel ragazzo e non lo sai, è quello anche che dovresti capire quest'estate così ariosa e fantasiosa, fresca, soprattutto fresca. Mi hai abbassato, va bene. Allora, abbassato perché sennò poi mi urli. Allora alzami il volume delle cuffie. Ti alzi il volume. Sì, ecco qua, dai. Ti senti bene adesso? Adesso sento molto bene me, ma soprattutto te, che hai una voce molto molto ormonale. Caro mio, qua l'estate fa brutti effetti. L'estate fa brutti effetti? Speriamo bene, va. Allora, entriamo dentro il discorso musicale. Ebbene, anche abbiamo mixato lo splendido lavoro di Alan Lamb, Night Passage del 1998, c'è anche un famoso disco del 1980 che si chiama Night Passage. Ma questi sono dischi che hai ascoltato tu. I momenti però della decadenza di Weather Report. Era terribile quel disco, Night Passage, bravo, di The Weather Report, un pessimo disco. Invece questo è uno straordinario disco, ve lo ricordiamo ancora, veramente andatevelo a pescare perché merita. Alan Lamb, 1998. Certo, non si è fatto sentire per un bel po' di anni, è tornato da pochi mesi. Sì. Ha fatto un'ultima uscita, un ottimo lavoro anche quello, almeno a detta dei critici, non l'abbiamo ancora sentito, insieme a altri due musicisti. Magari lo passeremo via. Ma sì, sicuramente. Bene, abbiamo mixato appunto Alan Lamb con John Hudak, personaggio che si muove nel fair recording e in una sorta appunto di manipolazione delle fonti sonore, registrazioni esterne, ma non solo, come in questo brano, un ottimo album oltretutto, For the Time Being, uscito nel 2004 per la CAT, dove intreccia elementi minimalisti piuttosto marcati, utilizzando sia strumentazioni elettroniche sia suoni registrati esternamente, microfonazioni, con appunto strumenti acustici, sentiamo sottofondo la chitarra ripetitiva, ossessiva, che comunque introduce una dinamica legata al silenzio. John Hudak, che è un personaggio che dal 2004 non fa uscire album, dunque ormai sono 8 anni. Sì, è un suo classico del suono silente, Pond, il Pond degli anni 90. Pond degli anni 90, splendido lavoro. Lavora anche molto sui droni ed è uno oltretutto che ha fatto diverse installazioni e diverse insonorizzazioni nei musei americani, famosissimo ad esempio il lavoro che ha fatto nel 1998 al Whitney Museum of American Art in New York, oppure al Brooklyn Bridge, al ponte di Brooklyn nel 98 sempre, dove appunto lavora in una sorta di vicinanza abbastanza chiara rispetto ad esempio il percorso sonoro che cercheranno di sviluppare martedì prossimo le ospiti che abbiamo avuto qua in diretta. Dunque c'è sicuramente un elemento che poi attraversa gran parte degli autori che stasera inseriremo, tra cui lo stesso John Hudak. Ricordiamo ancora For the Time Being e adesso andiamo a pescare un altro personaggio. Andiamo a tuffare nella selva di Francisco Lopez, anche qua l'idea del silenzio, prima lo dicevamo, il paradosso del silenzio in realtà non esiste, anche nella completa insonorizzazione, anche nelle camere proprio di insonorizzazione esistenti si sentirebbero comunque rumori del proprio corpo, quindi il silenzio in termini assoluti è assolutamente un paradosso, è come lo zero, lo concepiamo ma in realtà poi non esiste, esiste soltanto in termini di concetto, però appunto un discorso di annullare e di andare verso il silenzio e la composizione porta poi a ascoltare, a sentire quello che c'è intorno, quindi Francisco Lopez come poi anche personaggi che dopo mixeremo magari Marcus Davidson e Chris Watson, così anticipiamo, e lavorano proprio sul suono dell'ambiente, componendolo, ma non solo, poi più che altro cercando di estrapolare dalle loro registrazioni sul campo quello che è la poetica di una, di uno spazio sonoro, in questo caso la selva in Costa Rica, questa parte della foresta, appunto della zona, chiamata proprio la selva, e proprio la sensibilità musicale, in questo caso vera squisitamente musicale, di Francisco Lopez, che scopre punti proprio suoni di quei punti eccezionalmente musicali, eccezionalmente evocativi, appunto, di quel momento che stava vivendo, quindi anche questa sorta di passaggio di esplorazione e anche appunto di esperienza sonora e non solo. E Francisco Lopez, quindi, dalla selva, anch'esso del 97-98, sì, un periodo, sì, importante, sì, appunto, per questi esperimenti sulla... Beh, è stato un anno, sì, tra il 97 e il 2000 ci sono stati parecchi progetti che hanno portato avanti questo tipo di sonorizzazione. Sì, non è un caso, perché proprio dall'inizio degli anni 90, quando la nuova elettronica si è mossa, si è spostata molto su le sperimentazioni concrete, anche concretiste, sì, si è recuperato, sì, moltissimo dalla scuola francese, e si è preso anche il connubio chiaramente di Cage, quindi di inserire il silenzio, sì, anche dentro, sì, la composizione. Sì. Ci scusiamo, però c'è un automatismo piuttosto delirante, piuttosto anche demenziale per quanto riguarda le musiche sperimentali, purtroppo con sonorità appunto silenti succede questo. Ci scusiamo appunto per l'ingresso di Bjork, non stava male ma neanche bene dentro questa trasmissione. Thank you. Thank you. e parliamo sopra, una cosa abbastanza nuova per noi, di 451 veramente sonore. Abbiamo copiato un po' da Jerry, che salutiamo in diretta, anche se sarà in qualche paese, chissà dove. Sperduto nel mondo. Nel mondo abbiamo mixato, dato che comunque le dimensioni erano similari in termini di field recordings, registrazioni, microfonazioni di ambienti sonori, dalla selva, registrazione da una foresta pluviale di Costa Rica, del grande, grandissimo, direi, Francisco Lopez. Abbiamo fatto un passaggio a Marcus Davidson, che stiamo ancora sentendo in sottofondo, e Chris Watson da Cross Pollination, album uscito un anno fa esattamente, maggio 2011, il lavoro uscito oltretutto per una grande etichetta come la Touch, splendido lavoro realizzato da Watson e Davidson, registrazioni anche queste esterne in una foresta e anche al deserto del Kalahari in Sudafrica, dunque fondamentalmente un lavoro realizzato interamente in Sudafrica, però in ambientazioni differenti, con questo coro vocale estremamente suggestivo, evocativo, quasi a ricordare certe dimensioni lighettiane, non solo, insomma, connesse appunto a questo suono registrato di d'ambiente, che appunto quasi cerca di dare voce, una voce umana, corale, forse anche superiore, quasi ancestrale, primordiale alla natura, all'ambiente circostante, alla terra, insomma, in tutti i suoi elementi. È una sorta di richiamo, evocazione, in questo senso, la terra che chiama, no? Sì, in questo senso potremmo forse interpretare la vocalizzazione di Chris Watson. Di Chris Watson insieme a Marcus Davidson. Cross Pollination è l'album in questione uscito per la Touch. E appunto abbiamo prima mixato Lopez con Watson e Marcus Davidson, e in sottofondo appunto abbiamo ancora Bernard Gunther, ancora perché è stato mixato con appunto Watson e Davidson. E beh, un disco che serve un po' da chiusura, se abbiamo aperto con Cage, con gli ospiti appunto di questa sera, dedicata al suono silente, Sound of Silence l'abbiamo voluto chiamare. Beh, non si poteva che omaggiare forse negli anni 90 così punto di riferimento musicale per quanto riguarda il suono silente, l'esperimentazione appunto sulla composizione dentro il silenzio e viceversa. E veramente siamo arrivati quasi a una sorta di paradosso anche con Bernard Gunther, tant'è che non tanto in questo Ampère de Neige Salì, che è del 1993, che apre per molti versi questo appunto approccio sonoro musicale, ma negli album della fine degli anni 90 c'è proprio un'assenza della musica, e un silenzio proprio ricercato anche per non soltanto qualche secondo, ma anche proprio qualche minuto, dove si sentono veramente dei rumori, dei rintocchi lontanissimi, quasi appunto proprio a riflettere quello che è un ambiente sentito, ascoltato e vissuto. Quindi in questo senso la riflessione di Gunther è stata veramente importante, seminale appunto per lavori anche che abbiamo messo appunto quasi interamente nella seconda parte. E ci andiamo appunto ad ascoltare 1993 Gunther con questo gioiello Ampère de Neige Salì, della Selection, che tra l'altro era molto attenta sul lavoro post-industrial di gruppi come P16 di 4. È vero. E già insomma, paradossalmente, certa industrial si era mossa verso una, dal rumore a un rumore sempre più collegato al white noise, quindi al rumore bianco, e quindi al silenzio che entrava dentro la composizione. E poi salutiamo già direttamente, ricordiamo anche ovviamente gli ascoltatori che 451 frammenti sonori praticamente ufficialmente chiude stasera, in questa puntata, la stagione 2011-2012, dunque rientreremo a pieni ranghi a inizio ottobre, dunque intanto comunque vi saluteremo. Non si sa se poi verrà fatta, perché non diamo la sicurezza, perché è veramente dura stare in studi radiofonici con questo clima, è veramente pesante. Stasera abbiamo fatto veramente fatica, al di là dell'aria condizionata, forse soprattutto per l'aria condizionata perché comunque è anche pericolosa per altri aspetti, e dunque stasera chiuderemo ufficialmente. Può anche essere che ci venga un colpo di matto e facciamo qualcosa in questo mese, ma non garantiamo nulla. Sì, è un po' come dire, l'hai detto con un tono molto grave, ma d'altronde la situazione è grave. Forse cerchiamo un po' di aria incondizionata. Ecco, aria incondizionata cerchiamo, però insomma, giusto anche, molti hanno già smollato le trasmissioni la scorsa settimana, noi stoicamente siamo rientrati in diretta oggi che è già il 10 luglio. Insomma, no, sei stato che giorno è oggi? L'8. Qualche giorno. L'8 che è diventato 9. Adesso. È diventato 9, ecco. Siamo al trapasso, anche noi siamo al trapasso, alla fase terminale, caro mio. È forse meglio andare al cinema all'aperto, perché almeno si sta al fresco, forse. Va bene, io ovviamente un saluto per un'estate. Umida. Umida, speriamo che passi presto, perché basta con quest'estate. Ma poi arriva l'inverno, è tremendo. No, passiamo presto in termini di questa presa in giro, perché quest'anno non mi sembra che ci sia questa gran presa in giro, perché sanno che sta per te, non ci stanno tu soldi. Sei serio? Quest'anno non l'hanno pompata molto, anzi stanno piangendo perché non ci sono gli acquisti, perché la gente non va in vacanza, perché non caccia i sordi, chissà perché, chissà, forse perché c'è un po' di crisi, poca. Dai, d'altronde poi, insomma, questo inverno appunto prevede la fine di questo sistema. Sì, Maya, appunto, che erano compagni Maya, appunto, che dicevano appunto, basta. Quindi finirà il mondo, ma questo mondo, il mondo capitalista finirà. Nascerà un nuovo mondo comunista, però sì, diverso dal vecchio comunismo. Sì, perché sennò qualcuno si preoccupa, insomma, svilupperemo e sperimenteremo nuove forme. Sì, non pensate chi tu ti devi rimettere in forma, però, sì, è vero. Sperimentiamo veramente poco. No, ma non pensino, no, insomma, quelli che sono un po' gattopardi in sta città, no? Che prima erano comunisti, poi sono diventati democratici, poi sono diventati. Non pensate che il sistema nuovo potete di nuovo rifarvi la faccia, perché è finita quel periodo. Hai capito? Con questa promessa che è anche un po', come dire, minacciosa. Una minaccia. Il 21 dicembre ci sarà un grande cambiamento. Vi lasciamo, però noi ci sentiamo prima. Noi arriviamo prima ottobre. Così racconteremo giorno dopo l'estate, giorno. Quest'estate. Un'estate al mare. A mare, soprattutto. Tutti a mare. Va bene, un saluto e una buonanotte da Max Macchia. E da Eliseo Scapa. Fate i bravi, se potete fate i bravi. Se potete. Ciao.